un mondo difficile, lo so, però M2O, musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Parla e che si insinua come una tarla, respira meglio se tu stai male, questo è l'assurdo ma è reale. Io non mi perdo con sto giochino, seguo il cammino di Gigi D'Agostino. Ieri l'altro in discoteca, non ricordo in quale orario, mi sentivo un po' osservato, ero un malato volontario. Eppure lui che c'ha da guardare, inventa storie per criticarmi, grandi menzogne sono le sue armi. Io non mi perdo con quel meschino, seguo il cammino di Gigi D'Agostino. Ci sarà sempre qualcuno nel momento più opportuno a soffrire perché esisti, a provare mali misti. Perché tu vivi il tuo mondo, perché sei un po' vagabondo. Nella mia testa per lui non c'è mai spazio, è proprio questo il suo più grande strazio. E ballo e penso, e piango e sento, e ballo e sento, e penso e piango. E ballo e sento, e penso e piango, e sento e penso, e ballo e piango. E poi son triste ma gioisco, custodisco ma impazzisco. Dolce amore, senti il cuore come batte, anche quando si incebatte. E ballo e sento, e penso e piango, e sento e penso, e ballo e piango. E poi son triste ma gioisco, custodisco ma impazzisco, amore, senti. Sto giochino M2O, senti il cammino di Gigi D'Agostino. Tittitino, tittitino, tittitino, tittitino, tittitino, tittitino. Quieta sigaraia gitana. E la banera è il suo canto di seduzione. Questa musica sembra descrivere perfettamente il movimento che il torero fa davanti al toro. Egli infatti si muove lentamente per incantarlo. Buone non muoiono mai. Non giochiamo. Non giochiamo. M2O. Non giochiamo. Non giochiamo. Musica. Chi lo sa? Chi è l'illuso? Quello che illude o chi si illude? È un mistero. Una palude. sesso puro. Aperte, lo sguardo in alto, sei pronto al salto. La la la la la. cioè pertanto, se a volte ho pianto, la mano era fredda, ero senza il guanto. Però M2O. You create misery, have your cake and eat it. Take your place in history. Esplorare gli abissi di un qualcosa che ancora nessuno conosce, e cioè l'ignoto che c'è davanti a noi, e cioè l'ignoto che c'è davanti a noi, davanti a noi. Però M2O. Oh, ci aspetta, il suo orgasmo va di fretta. Il problema giace a valle, dagli un calcio nel... Musica allo stato sicuro e puro. Stai sicuro che il M2O. Mi piace il tempo e questa emozione, mi piace il gioco di sta canzone. Gigi D'Agostino.

canzone. Non mi rompere il mano. Before I begin. pattern of mine. That you seize. How long am I gonna stand with my head stuck under the sand? I'll stop before I could stop, before I see the things the right way on. We'll be right back. Gigi D'Agostino, mica noccioline. Agostino.